Rieccoci qui, amici, dopo questa breve pausa. Io sono andata alla ricerca nel frattempo di altri avvistamenti UFO sempre sul nostro territorio. E praticamente io ho trovato praticamente una sorta di calendario che proviene da un archivio telematico. E praticamente va ad annoverare quelli che sono gli avvistamenti più, diciamo, recenti che si sono avuti in Calabria. Ne ho trovato uno che risale al 23 agosto del 1998, l'ora all'incirca viene circoscritta come l'ora dopo il pranzo, e il luogo è stato verso Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Si è praticamente intravisto un oggetto tondeggiante metallico ad 1 chilometro di altezza che si muove sfarfallando orizzontalmente verso destra, come se non sentisse la forza di gravità, secondo quelle che sono le testimonianze. Sullo zenith sopra la casa appunto di chi racconta l'evento, e poi si arresta ed infine scompare. In tutto dura 10 secondi questo avvistamento. Poi praticamente ce n'è un altro che risale all'anno prima, che avviene addirittura il 12 agosto 1997 alle 23:15 di sera nei pressi di Mirto in provincia di Cosenza, e si parla di un'ellissoide bianco-giallastra. Un altro avvistamento si ha il 13, probabilmente tra maggio e aprile del 1997, sempre alle 1:30 di notte su Teuria Nova, ovvero in provincia di Reggio Calabria. Visti due intensi fasci di luce, un blu e un rosa, avvistamenti anche però nei pressi di Palma, dei Palmi nello stesso arco temporale. E invece il 18 di dicembre del 1994 alle 17:45, quando tra Taure Nova e Polistena, in provincia di Reggio Calabria, un automobilista nota un globo luminoso giallo-arancio in cielo. E siamo sempre nei pressi di Reggio Calabria, quindi possiamo circoscrivere circa due avvistamenti finora. E invece il 18-12 del 1994, sempre alle 17:45, in provincia di Reggio Calabria, ovvero per la precisione a Rizziconi, quando uno studente filma un UFO, quindi risale lo stesso giorno, alla stessa ora, nella stessa provincia. Pare che questa navicella si fosse spostata ad una velocità molto grande per poter girare appunto tra Taure Nova, Polistena e Rizziconi. Invece il 26/10 del 1994, sembra che il 1994 sia stato un anno di avvistamenti da quel che sembra, alle 16:30 nei pressi di Lamezia Terme, 5 persone fotografano, scusate, un UFO a bassa quota. La fonte di questa notizia proviene da UFO News, del dicembre del 1996, a pagina 6 addirittura. E invece il 10 di agosto 1991, sempre in età, durante l'orario di cena, o pressappoco un po' dopo, sulle colline di Lamezia, in provincia di Catanzaro ancora, dopo che un satellite artificiale, scusate, ebbe completato il suo percorso, compare un altro punto luminoso. L'oggetto si muoveva a velocità incredibile, seguendo lo stesso percorso del satellite. Procedeva a zigzag, comparendo in un punto e scompariva nell'altro, per poi riapparire subito poco dopo. Non lasciava scia, non era una stella cadente, e il tutto è durato solo pochissimi secondi. L'avvistamento finora più lontano che vi posso raccontare, nella prima tornata di questo archivio, risale al 12 di gennaio 1989, che durante la notte un missile esplode accanto ad un aereo in volo da Milano a Reggio Calabria. E invece il 4 di giugno 1987, quando a Crosia ancora una volta viene filmato un UFO durante un'estasi mistica di un giovane veggente. Qui andiamo anche a toccare anche altri ambiti del paranormale. E invece l'8 di giugno del 1986, a luna di notte, quando tra Palmi e Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, 5 oggetti di squidali compaiono a solcare il cielo. Sono addirittura 5 questa volta. Mentre il 28 di agosto del 1971 si ha un altro avvistamento, alle 21:30 su Vibo Marina, scusate, quando una luce bianca gialla attraversa la litoranea. Ci sono ancora degli altri avvistamenti di cui vi voglio parlare, però adesso devo lasciarvi ad una pausa musicale, restate con noi.